L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti in questa puntata del 23 di dicembre, quindi vi dobbiamo subito fare gli auguri perché le feste sono cominciate, a volte dura, lo sappiamo, c'è da resistere, almeno oggi c'è da resistere, poi da domani tutti con le gambe sotto al tavolo e ci si riposa davvero. E però oggi, come dicevamo, a volte è davvero dura, siamo tutti in giro a fare acquisti in auto e senza voler colpevolizzare nessuno, e beh, stiamo inquinando un po' tutti, stiamo inquinando tanto con tutte queste auto in movimento. Ecco, se davvero voleste sapere quanto inquiniamo, ci servirebbe un monitoraggio diffuso sul territorio, perché le centraline che tutte le città hanno non sono in ogni angolo di strada, anzi a volte tradiscono anche perché sono in angoli particolarmente trafficati o sono in angoli dove non passa nessuno. Ecco, ci vuole un monitoraggio diffuso ed è quello che sta proponendo l'associazione Cittadini per l'Aria, guidata da Anna Gerometta, con una campagna diretta particolarmente al monitoraggio del biossido di azoto. Questo tipo di controllo è stato sperimentato a Milano un anno fa e ne parlammo tra l'altro in questa trasmissione. Ora viene riproposto ai cittadini del capoluogo lombardo, ma anche a quelli di altre città. La campagna, dicevamo, si chiama NO2 No Grazie e viene realizzata con il contributo di Patagonia e il sostegno dell'associazione no profit Client Earth. E così si svolge. Sentiamo Anna Gerometta. La campagna consiste in un monitoraggio di comunità, chiamiamolo così. Chiediamo ai cittadini di essere coinvolti in prima linea nel misurare i livelli del biossido di azoto dove vivono, in particolare a Milano quest'anno chiediamo loro di, fra virgolette, adottare una scuola, nel senso di prendere un campionatore da mettere davanti a una scuola, un asilo, un parco giochi. Invece a Brescia e a Roma ognuno può selezionare il punto che desidera, dove potrà a febbraio posizionare il piccolo campionatore che noi consegneremo a gennaio. Rimarrà appeso a un palo ad un'altezza di circa 3 metri dove i cittadini lo collocheranno per un mese esatto, e poi noi recupereremo i campionatori, li manderemo in laboratorio e con tutti i dati che raccoglieremo faremo una mappa dell'esposizione al biossido di azoto con una risoluzione spaziale straordinaria, nel senso che noi abbiamo delle centraline che misurano, ma misurano naturalmente in quelle di ARPA in uno o due punti, ma non hanno la risoluzione del monitoraggio che viene fatto in modo così diffuso. Quindi sarà un'aggiunta di dati straordinaria per quanto riguarda Milano e una nuova, diciamo, raccolta di dati molto importante per Roma e Brescia. Con questi dati speriamo di portare agli amministratori l'evidenza del fatto che dobbiamo risolvere il problema del biossido di azoto, che è facilmente risolvibile limitando e progressivamente bandendo i veicoli diesel che sono responsabili delle emissioni di NO2. E quindi diciamo che ci proponiamo un obiettivo per il quale i dati sono uno strumento. Certamente, allora dicevo prima che a Milano ha già funzionato, con quali risultati, che cosa vi ha consentito, giusto per far capire cosa si può vedere, diciamo, attraverso questo tipo di rilevazione? Sì, su questo i dati di Milano di febbraio scorso erano 220 postazioni, abbiamo avuto su base mensile rispetto al limite di 40 microgrammi annuo 96% delle centraline fuori legge, su base annuale erano fuori legge l'86%, perché siamo riusciti a trasporre il dato mensile in un dato annuale. Abbiamo il patrocinio della divisione di chimica dell'ambiente e dei beni culturali che ci consente di fare questi lavori scientifici straordinari. E poi in ogni centralina quindi abbiamo potuto inserire, si può vedere sul nostro sito già oggi il vecchio progetto e quindi i dati che ne sono emersi, in ogni centralina si può constatare il numero, diciamo il livello misurato mensilmente, il livello misurabile misurato annualmente e il danno sanitario, quindi la mortalità aggiuntiva, i ricoveri aggiuntivi, le asme e le patologie bronchiali aggiuntive per i bambini dovute, diciamo, riconducibili esclusivamente alla violazione del livello di legge. Quindi è un monito, in un certo senso, forte per gli amministratori per dire questo è quello che consegue esattamente alla mancata azione su questo tema. Quindi è diciamo, un'evidenza forte del fatto che bisogna fare molto di più per limitare il traffico, in particolare per eliminare al più presto possibile i diesel. Non si può dare la priorità alla, diciamo, mobilità privata motorizzata a fronte dei danni sempre più gravi che vengono riconosciuti a carico della popolazione. Dobbiamo ricordare che ultimamente stanno uscendo un sacco di studi sull'incidenza che il biossido di azoto ha sullo sviluppo cognitivo del cervello dei bambini, cioè sullo sviluppo appunto delle funzioni cognitive dei bambini e sui livelli di attenzione a scuola. Addirittura uno studio recentemente, proprio pochissime settimane fa, ha stabilito che quando i livelli si alzano, i bambini hanno un livello di attenzione a scuola che si riduce. Allora, questo monitoraggio, come abbiamo detto, si svolgerà a Roma, Milano, Brescia, Bologna, questo sotto, diciamo, la vostra egida di Cittadini per l'Aria. Poi ci sono altri monitoraggi che si svolgono nell'area anche vasta europea, nelle associazioni di cui fate parte anche voi. Beh, diciamo che noi come associazione Cittadini per l'Aria facciamo parte di due reti internazionali che sono la European Environment Bureau, che è una, diciamo, associazione ombrello di tante associazioni ambientaliste europee, e di Transport and Environment, che è anche un'altra associazione che si occupa principalmente di far evolvere il trasporto in modo sostenibile. E chiaramente fra tutte queste associazioni gli esperimenti di monitoraggi dal basso si stanno moltiplicando. Devo dire che noi, secondo me, in Italia abbiamo fatto un buon lavoro. Credo che l'unico altro esperimento così massiccio e molto più massiccio del nostro, perché erano riusciti a raccogliere 2.000 partecipanti al monitoraggio, è stato fatto a Anversa un paio d'anni fa, però comunque si stanno riproducendo questi sistemi di monitoraggio dal basso. In questo momento un esperimento analogo lo stanno facendo a Firenze, le Mammino Inceneritore, appunto a Bologna. Il nostro progetto è stato ripreso da quest'altra associazione che si chiama Aria Pesa, che quindi sta facendo anche lei questo progetto. I cittadini sentono questo problema. Pochi giorni fa è uscito l'Eurobarometro, i dati dell'Eurobarometro, e per gli italiani il problema dell'inquinamento atmosferico è il più grave rispetto alla preoccupazione degli altri cittadini europei. E quindi è veramente positivo il fatto che le persone si attivino, che facciano sentire il problema e lo facciano visualizzare attraverso i dati, che poi sono dati anche molto attendibili, in modo tale che la politica prenda il coraggio e agisca. Vi ricordo, per partecipare è necessario aderire entro il 21 di gennaio andando sul sito cittadiniperlaria.org. C'è la richiesta di un contributo economico tra i 20 e i 30 euro a seconda delle città che servono per l'apparecchiatura e le analisi che dopo dovranno essere compiute, e a quel punto il campionatore di aria arriverà direttamente da voi. La raccolta dei dati è prevista per febbraio, quando le feste saranno passate, ma non l'aria pesante, purtroppo. Cambiamo argomento, per concludere questo primo blocco, dell'altro pianeta. Parliamo di una startup nata dall'incubatore I3P di Torino, si chiama Ener Paper, si occupa di isolamento termico e acustico, che sono due cose che vanno benissimo a Natale con le feste in genere. L'isolamento acustico e l'isolamento termico, se la festa è d'inverno, serve molto. Isolamento ottenuto grazie alla cellulosa proveniente da scarti da macero. Ha già vinto questa startup il premio Io Penso Circolare, promosso dalla Stampa con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. Davide Contu di Ener Paper è stato intervistato da Adriano Palazzolo. Ener Paper è una startup che produce un innovativo isolante termoacustico partendo da un processo brevettato internazionalmente di cellulosa. Da dove nasce l'idea e cos'è questo processo brevettato? Nasce tramite la conoscenza mia e di un mio socio, che abbiamo messo le competenze, uno di conoscenza della chimica di cartiera e io della tecnica di insufflaggio. Abbiamo mixato le due competenze e abbiamo creato questo nuovo prodotto. Lo avete brevettato? Sì. Internazionalmente è un prodotto, cioè un brevetto sia di prodotto che di processo. Siamo in radio, quindi non abbiamo neanche il supporto delle immagini. Cerchiamo di far capire a chi ci ascolterà che cosa fate praticamente. Sì. Praticamente additiviamo la carta e Ener Paper è autoesplicativo. Noi facciamo un risparmio energetico attraverso l'utilizzo della carta. Quindi noi applichiamo dei chimici molto green alla carta in modo da renderla antifiamma e antimuffa e poi fioccarla direttamente nel cantiere attraverso una nostra macchina studiata apposta per il processo dell'insufflaggio. E questo tipo di prodotto garantisce performance superiori in tutto il con prodotti compatibili al nostro, comparabili al nostro, del 10% in più di conducibilità termica e del 50% in meno di densità, quindi paragonabile a qualsiasi prodotto dell'insufflaggio. Siamo i best performer. Questo permette ai nostri clienti di avere, a parità di isolamento, prezzi molto concorrenziali, oltre a un prodotto molto green. Qual è stato il percorso della startup? Dove siete nati, come, quando e come vi siete sviluppati? Allora, noi siamo nati dentro l'incubatore del Politecnico di Torino, siamo partiti a maggio del 2016 e già adesso siamo attivi commercialmente in tutta Italia. Abbiamo già fatto una cinquantina di interventi e stiamo partendo anche sul mercato francese. Ci fermiamo, c'è una piccola pausa, torniamo subito dopo. Ciao Ivana, allora domenica mattina andiamo a correre. Beh sì, la maratona ci aspetta. Io sono carichissimo, mi sono allenato per mesi, ho seguito tutti i consigli di Personal Best su Radio 24. Ok, allora ci vediamo domenica mattina alle 6.30 puntuale. Alle 6.30? Sì, così mentre andiamo ascoltiamo la nuova puntata di Personal Best. Ma io alle 6.30 non ce la faccio, è troppo presto. Vabbè, la trasmissione? Che problema c'è? La possiamo ascoltare quando vogliamo, c'è il podcast. Sei proprio un podista della domenica. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini. Buone feste, buon appetito. Non vogliamo mandare nulla di traverso a nessuno, però adesso dobbiamo darvi qualche strumento per raccapezzarsi in una questione di cui si è molto parlato in questo 2017. Parliamo infatti di glifosato. È un erbicida la cui pericolosità per la salute umana è molto in discussione in questi ultimi mesi e lo sarà ancora a lungo, poiché l'Europa ne ha riautorizzato l'utilizzo per 5 anni. Una scelta che ha scontentato un po' tutti, sia chi voleva mettere al bando il glifosato, sia chi invece chiedeva la solita riautorizzazione, cioè per 15 anni. L'Italia sta sul fronte di chi non voleva questa riautorizzazione. Da noi ci sono diverse limitazioni nell'uso del glifosato. Non è bandito, ma ci sono limitazioni. Ma non è tanto su questo aspetto che abbiamo chiesto lumi a Luciano Azzori, biologo, esperto in sicurezza degli alimenti e in tutela della salute dello studio ABR. Gli abbiamo chiesto di presentarci un po' questo glifosato benedetto e di mettere in ordine le voci che abbiamo sentito in questi mesi. Glifosato è il principio attivo, è un termine generico per indicare un principio attivo usato come erbicida. È sicuramente l'erbicida più usato al mondo perché attualmente costa poco e funziona molto bene. Quindi serve per eliminare in maniera non selettiva, quindi non agisce su tutte le piante, anche quelle stesse coltivate, adesso vediamo come si fa ad usarlo, per eliminare le infestanti. Un tempo in passato questo erbicida, che è in commercio dagli anni 70, veniva utilizzato prima della semina per preparare il terreno in modo tale che le eventuali sementi delle erbe infestanti non riuscissero a crescere o per eliminarle, mentre invece successivamente venivano messe le semi di coltura che crescevano. Attualmente questo non si fa, o perlomeno si fa poco, ma si utilizza anche durante la coltivazione della pianta che ci sta in quel momento, che può essere un cereale, grano, grano, mais, orzo, eccetera, o addirittura si fa anche per attivare, per aumentare, diciamo, per anticipare la raccolta, come viene fatto nel grano cosiddetto canadese. E quindi c'è un uso, diciamo, eccessivo di questo prodotto. Il problema, che è stato considerato innocuo fino a un certo periodo, no? Anche per questo forse se ne è usato tanto. No, il problema non è solo innocuo o non innocuo, è anche la quantità d'uso, perché finché era monopolio, diciamo, aveva il brevetto la Monsanto, lo vendeva caro la Monsanto, quindi molti agricoltori non potevano permetterselo, c'erano molte aree del mondo che non potevano permetterselo. Poi nel momento in cui nel 2001 è caduto il brevetto, lo stanno usando praticamente tantissime aziende questo principio attivo. Pensa, solo in Europa ci sono 14 aziende che lo mettono nei loro erbicidi, e sono oltre 2000 gli erbicidi, gli agrofarmaci contenenti glifosato registrati nell'Unione Europea. Questo dà la dimensione, il che cosa vuol dire? Che i prezzi si sono abbattuti notevolmente ed è accessibile a tanti. E questo prodotto, anche se è stato diffuso per anni dicendo che era innocuo non è, perché già si sa che agisce sulla fauna acquatica ed è particolarmente persistente, quindi è un contaminante ambientale delle acque di falda e delle acque sotterranee. Poi per quanto riguarda l'uomo, gli effetti sull'uomo è in piena discussione, perché l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, lo IARC, l'ha definito probabile causa di tumori. In maniera opposta invece si è espressa l'EFSA, che l'ha scritto probabilmente non cancerogeno, proprio diametralmente opposti. Il problema, vabbè, poi è nato tutta una diatriba per quanto concerne il cosiddetto Monsanto Papers, eccetera, eccetera, lo scandalo del parere dell'EFSA, pare che una parte sia stata un copia e incolla dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione prodotta dalla Monsanto. Comunque i giornali, la cronaca già ha espresso parecchio in merito a ciò. Il fatto è sicuramente uno, che questa sostanza spesso è stata attestata la sua innocuità o pericolosità, cioè il suo rischio sulla salute dell'uomo, come principio attivo puro. In realtà non viene mai usato puro, nessun erbicida ce l'ha puro, sono dei formulati, cioè un insieme di mix di sostanze, poi c'è dentro anche il glifosato, e spesso sono questi mix che rendono più o meno pericoloso il glifosato. Quindi si dovrebbe discutere non del principio attivo singolo in quanto tale, ma dei formulati. Ecco perché ad esempio in Italia, in Francia e in altri paesi è stato vietato tutti i formulati che contengono lamina di sego cosiddetta polietossilata, perché si è visto che questa invece è molto pericolosa, ma ce ne sono anche altri formulati. Quindi bisognerebbe fare la ricerca, una ricerca, diciamo, molto più approfondita, ovviamente molto, quindi, più severa, non solo tra virgolette di parte. Quindi non processare solo il glifosato, ma controllare un po' tutto. Chiaro, è chiaro che poi non viene messo il glifosato. Poi che mi venga a dire, come qualcuno dice, la concentrazione massima di glifosato negli alimenti è di 0,160 mg per chilogrammo di alimento. In realtà sì, è un valore bassissimo, dice caspita, basta rispettare questo valore, però questo valore è vero che tiene conto dell'effetto sommatorio, perché c'è chi dice, insomma, con questo valore per avere un effetto tumorale bisognerebbe mangiare circa 200 kg di prodotto contaminati di glifosato al giorno. Non è proprio così, perché chi dice così tiene conto dell'effetto sommatorio ma non tiene conto dell'effetto cocktail. Io so il glifosato, se reagisce con altre sostanze, cosa mi dà? No, e allora non ne teniamo conto. Non tiene conto dei vari formulati, ma del principio attivo, il discorso che stavamo facendo poco fa. Non tiene conto dei metaboliti. Il glifosato in natura anche negli alimenti tende a trasformarsi in altro. Noi conosciamo solamente o principalmente il principale metabolita del glifosato, che è cosiddetto AMPA, ma sappiamo poco e niente dell'AMPA, se è più o meno pericoloso del glifosato in quanto materia prima. Non sappiamo o sappiamo poco della sensibilità personale. È ovvio che i bambini e le donne in gravidanza sono le più sensibili e più a rischio. Quindi in realtà è da studiare meglio e bisognerebbe, io mi sarei aspettato personalmente, l'applicazione del principio di precauzione. Il principio di precauzione che dice che nel momento in cui si hanno dei dubbi, delle incertezze per quanto riguarda la pericolosità, quindi il rischio di una sostanza chimica, nel frattempo che si aspettano, diciamo, le evidenze scientifiche che siano tutte concordi, diciamo per la maggior parte concordi, bisognerebbe che questa sostanza venisse regolamentata, intendiamo quindi limitata nell'uso o addirittura vietata, e questo in Europa non c'è. C'è in Italia, c'è in Francia. L'Italia in questo è stata anzi stupenda, ottima, perché ha messo davanti prima di tutto la tutela della salute umana e la difesa dell'ambiente, e poi questioni economiche o di uso o non uso. C'è gente che dice: guardate che se non avessimo autorizzato il glifosato, l'Europa, Italia inclusa, sarebbe stata in difficoltà nel riuscire a vendere e a produrre quantità ottime a prezzi concorrenziali i propri prodotti, specialmente i cereali, il grano, il mais, eccetera, nel business mondiale. Questo è sicuramente vero, ma io metto sempre prima davanti la salute e poi dopo il business. E l'Italia in questo è stata molto severa e concorde nel tempo, nel senso che ha mantenuto una posizione coerente fin dall'inizio, insieme alla Francia, e l'ha regolamentata. In Italia c'è il principio di precauzione. C'è un altro aspetto che lei sottolinea nell'articolo, che è quello del fatto che, essendo un erbicida, no, bisogna avere delle sementi che resistano, perché venga utilizzato questo erbicida. Non è un dettaglio anche questo? Molti citano la Monsanto, a parte il fatto che va detto che la Monsanto è in fase di acquisizione della Bayer tedesca, perfetto, che sarà ultimato a breve perché deve avere il benestare della Commissione europea, eccetera. Ma il fatto è vero, perché il glifosato non crea vero business, cioè le aziende, visto che i prezzi sono abbattuti notevolmente, non guadagnano tanto, specialmente la Monsanto e quindi anche la Bayer, sarà in un futuro prossimo, dalla vendita di questo principio attivo, che ormai si è perso il brevetto, ma dalla vendita delle sementi resistenti a questo principio attivo, cioè di piante che poi sono selezionate, piante OGM, ovviamente transgeniche, che resistono a questo erbicida. E qui il business, perché questo brevetto c'è ancora la Monsanto. E questo è, allora, il vero gioco, non è tanto la vendita, il vero business, non è tanto la vendita del glifosato, ma quanto delle piante OGM resistenti al glifosato. E cos'è il problema? Anche se poi in Italia, in Europa, gli OGM vengono coltivati poco e niente, ad esempio in Italia sono vietati, eccetera, non si voleva, a parer mio, creare un precedente in Europa rispetto al resto del mondo, perché i veri consumatori di glifosato e di conseguenza di OGM, piante OGM, soia, mais e tante altre, resistente al glifosato, sono altri paesi, c'è l'Argentina soprattutto, gli Stati Uniti, ma anche il Brasile, la Cina, il Sudafrica. E così ringraziamo e salutiamo Luciano Azzori, i cui articoli potete leggere anche su internet sul sito www.alimentiesicurezza.it. E in chiusura torniamo sui trasporti e sull'inquinamento derivante non dalle auto in città questa volta, ma dai tir, che per le città passano un po' meno, ma che in Italia sono il principale mezzo di trasporto merci, molto molto di più del treno. Cosa si può fare per ridurre l'impatto ambientale del trasporto merci su gomma? Andrea Ferro ha avuto l'occasione di parlarne con Paolo Carri, che è capo dell'area sostenibilità e direttore Business Support and Development di Italscania. Beh, innanzitutto mi preme dire che la normativa per quanto riguarda gli autocarri, in molti aspetti che riguardano le emissioni e la sicurezza, precorre le vetture. Questo vale ad esempio per l'Euro 6 piuttosto che per la frenata autonoma, quindi siamo avanti da questo punto di vista. I costruttori devono investire molto e lo stanno facendo, la tecnologia dei motori combustibili alternativi che ci possono già dare un beneficio nell'oggi per quanto riguarda le emissioni, un esempio il metano, ma vorrei anche menzionare ad esempio l'HVO, un diesel sintetico, piuttosto che anche l'etanolo, magari in Italia meno, ma in altre parti del mondo molto di più. L'elettrificazione è un trend che ormai sembra ineluttabile anche nel veicolo pesante, anche se in questo segmento, su questi veicoli, presenta delle problematiche che le vetture e i veicoli leggeri non conoscono per via delle masse in gioco e per via delle autonomie che da questi veicoli ci si attende di ottenere. Ma già oggi un TIR Euro 6 emette molto, ma molto meno rispetto a un TIR Euro 0 o Euro 1. Se lo confrontiamo con un Euro 1, abbiamo il particolato nell'ordine, una riduzione del particolato nell'ordine del 98-99%, addirittura siamo arrivati a contare le particelle oltre che la massa di particolato emessa. Qui il grande problema, quando si parla non tanto di CO2 ma di inquinanti locali, è un parco circolante che resta ancora indietro, resta ancora arretrato, quindi c'è da fare molto per favorire un rinnovo del parco, per sfruttare il beneficio di quell'investimento tecnologico che le case hanno fatto in questi anni. Guida autonoma, anche quello contribuirà in termini significativi nel rendere più sostenibile il sistema dei trasporti su gomma? Indubbiamente, probabilmente in un termine più medio-lungo, e quello che ci aspettiamo di vedere per primo sulle strade è il platooning, che ci potrà consentire di avere... Ecco, raccontiamolo. Il platooning consiste nel far viaggiare i veicoli industriali come un plotone di ciclisti, dove il primo taglia l'aria e consente a quelli che seguono di avere dei benefici in termini di consumo e anche quindi in questo caso di emissione analogica, la stessa del gruppo di ciclisti, per intenderci. E poi ci saranno anche i tir che andranno da soli? Beh, in un momento successivo. Nel platooning il trucco è quello di fare in modo che il primo veicolo controlli anche quelli seguenti, che così possono viaggiare a una distanza ben inferiore a quella di sicurezza. A questo punto ci fermiamo davvero, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, ci ritroviamo dopo Natale, ma avremo un'altra vigilia da fronteggiare, che è quella di Capodanno. A tutti voi un buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini.